Salve a tutti e bentornati su ilpiacieredescrivere.it. Oggi parliamo di trend e di come sfruttarli attraverso il book marketing per scrivere e pubblicare un libro di successo. Utilizzeremo anche gli strumenti del self-publishing made by Amazon per promuovere il nostro libro e per venderlo come dei veri e propri imprenditori. La prima cosa da fare, se non si ha idea su cosa si vuole scrivere, è definire dei primi obiettivi e un primo pubblico, esattamente come si fa quando si sceglie di partire con un progetto online. Capire di cosa si vuole parlare, a chi ci si vuole rivolgere e soprattutto quali sono i nostri obiettivi collaterali, perché se il nostro obiettivo principale è certamente vendere il libro, d'altra parte dobbiamo anche capire come queste vendite poi si tradurranno, nel senso che non basta che semplicemente il testo venda, ma naturalmente deve portare a dei contatti, deve portare anche a un futuro, per così dire. La prima cosa da fare è vedere quali sono le classifiche dei bestseller. Ora, la classifica bestseller di Amazon è ovviamente dipendente da alcuni fattori che devono essere filtrati. Quindi la classifica così com'è non dà un'idea perfetta o comunque non dà l'ispirazione giusta per poter scrivere un libro che effettivamente venda per un certo periodo di tempo. La prima cosa da fare quindi è vedere un attimo quali sono le classifiche dei bestseller, senza contare quelli che sono i testi gratuiti in quel momento, oppure quei testi che sono classici. Cioè è naturale che se parliamo di un libro di Oscar Wilde piuttosto che di un libro di Freud, è normale che vende sempre, perché ormai fa parte dei grandi classici. Oltre a questo, si deve eliminare dalla classifica dei bestseller quelle che sono le personalizzazioni. Infatti, quando compriamo un libro, ma in realtà quando compriamo qualsiasi cosa, Amazon va a registrare quello che abbiamo comprato e ci propone dei prodotti simili. Quindi è abbastanza normale che se uno scrittore è anche un lettore fantasy, per esempio, potrà trovare tra i bestseller naturalmente tutti i libri fantasy, anche se poi magari a livello nazionale non sono testi che magari in quel momento stanno andando benissimo. Naturalmente è solo un esempio, poteva essere i libri rosa, poteva essere il romance, poteva essere la cronaca nera, poteva essere qualsiasi cosa. Ora, nel vedere la classifica di Amazon è importante seguirla per un certo periodo di tempo, almeno per circa un mese, e vedere quali sono le caratteristiche in comune, ovvero vedere di cosa parlano, quali sono i punti di forza di quei libri e cosa dicono le recensioni, sia in positivo sia in negativo. Oltre a questo, è molto importante fare un confronto con quelle che sono le classifiche dei libri più tradizionali. In questo caso potrebbe quindi essere utile vedere anche quelle che sono le classifiche bestseller di IBS, oppure di libreria universitaria, oppure dei più grandi giornali. In questo modo avremo una panoramica completa, visto che in Italia quella che è la stampa tradizionale ha ancora un vasto appeal. Dopo questo periodo di osservazione è importante mettersi al lavoro per scrivere un libro che naturalmente non sia copia e incolla di quanto si è visto fino a quel momento, ma che tragga il meglio e sia assolutamente personale. In questo caso stiamo facendo riferimento agli scrittori in quanto siamo un sito di scrittori, però in questa fase un imprenditore potrebbe anche pensare a quelli che sono i punti di forza del suo lavoro o i consigli utili che può dare un aspirante imprenditore. Nel caso degli scrittori invece si può pensare di realizzare una storia che sia diversa dalle altre per certi aspetti e che abbia comunque il favore del pubblico, quindi anche vedere i forum di settore su quel genere, le novità che i lettori cercano e che stanno ancora aspettando, quindi anche da questo punto di vista i gruppi Facebook su un determinato genere, possono dare utili consigli. Dopo questo periodo di raccolta informazioni, è importante scrivere un romanzo che sia di valore. Per farlo si hanno due soluzioni. Si può contattare un ghostwriter, oppure si può decidere di scrivere il proprio libro, anche qui scegliendo due direzioni ben diverse. Si può scegliere di fare un corso di scrittura creativa se non si è pronti ad affrontare quel genere, oppure si può scegliere di iniziare a scrivere organizzando una scaletta e quindi sfruttando tutte le tecniche utili per scrivere un romanzo. Naturalmente i trend cambiano molto velocemente, quindi il consiglio è vedere o i trend dell'anno precedente, perché siamo ancora ad aprile, oppure attendere i primi 6 mesi del 2019 per capire cosa è andato bene e cosa quindi potrà andare bene anche a settembre-ottobre. Quando si scrive per Amazon e quindi si è scelto cosa scrivere, cosa fare, ci si deve un po' velocizzare, quindi scrivere. Per fortuna, a venire in aiuto ci sono le iniziative come il NaNoWriMo, che permettono comunque di creare una bozza nel giro di un mese. Il NaNoWriMo è cominciato lo scorso 1 aprile, ci saranno altre due iniziative, sempre come NaNoCamp a luglio e poi come NaNoWriMo tra virgolette tradizionale a novembre. Quindi questa stesura di un mese deve essere prolifica per quanto possibile, ovviamente logica per quanto possibile, comunque si deve cercare di creare un libro di qualità, quindi deve essere un testo che comunque colpisca il pubblico e non quanto si è visto finora, o comunque qualcosa di copiato rispetto a quello che già c'è. E naturalmente dopo questa stesura sarà importante rivolgersi a un editor che poi curi questo libro e lo rimetta a nuovo, oltre a una vostra prima correzione. Quando il testo è ultimato, naturalmente ci si registra su Kindle Kindle Publishing. Da quel punto si passa alla pubblicazione in self-publishing attraverso di Amazon. Naturalmente questo sistema può essere utilizzato anche da chi decide di pubblicare con editore. Il problema è che gli editori mettono molto tempo per scegliere il libro. Quindi cosa succede? Può succedere che il testo sia in linea con un trend che è già passato, perché l'editore ci ha messo 6 mesi, un anno a scegliere quel testo. Quindi per comodità abbiamo preferito inserire questa guida all'interno del self-publishing. A quel punto si passa a tutto ciò che è la promozione, perché ormai il libro è caricato su Amazon e quindi poi in ebook, in cartaceo, in audiolibro. Vi rimandiamo all'articolo che abbiamo scritto su perché scegliere di raccontare la propria storia e quindi di incidere il nostro audiolibro piuttosto che rivolgersi a un esperto, e quindi si può partire con quella che è la promozione del testo. Il consiglio è anche, tra le manovre di organizzazione, di creare la cartella stampa prima della fine del libro, quando cioè si ha già una vaga idea di trama e di sinossi, perché questa cartella stampa potrà essere cambiata in qualsiasi momento e comunque quando il testo sarà pronto o decideremo la data, perché Amazon permette anche di decidere la data di pubblicazione e di mettere le prenotazioni in anticipo col pre-order, quindi anche creare una copia di anteprima da dare ai blogger, creare degli sconti, creare delle promozioni mirate, tutto questo è assolutamente possibile e da sfruttare accanto ai canali tradizionali. Infatti gli autori esordienti che pubblicano attraverso questa piattaforma oppure decidono semplicemente di pubblicare un libro, sperando ovviamente in un successo, possono anche rivolgersi a quelli che sono i giornali locali, soprattutto se il libro fa riferimento ad alcune realtà del territorio. E questo può essere anche un modo per attirare quelle persone che magari non seguono molto quello che è il mondo del blogging, ma comprano comunque il giornale ogni mattina. Quindi a questo punto si passa da un'organizzazione di stesura a un'organizzazione della promozione, della comunicazione sul testo. Il piano di comunicazione dovrebbe essere di circa un anno, nel quale l'autore dovrebbe pensare anche a creare una newsletter o comunque dei canali social per far conoscere il proprio libro. Naturalmente ci sono dei siti che possono aiutare, nel senso che se una persona non vuole creare il proprio blog, ma comunque vuole vendere il suo libro, vuole creare una newsletter, ci sono dei siti che offrono gratuitamente la possibilità di creare una landing page che è già ottimizzata, va inserito solo il testo. Vi lascio il link in descrizione nel video, invece nell'articolo vi lascio proprio il link. Quindi con questa landing page è possibile creare una newsletter efficace e per ottenere quelli che sono i contatti e quindi i nuovi lettori, questo modello di vendita può essere utile utilizzare la sponsorizzazione su Facebook, in quanto è proprio Facebook a creare il modulo per la newsletter. Qualora non fosse disponibile la landing page, quindi da quel momento si passa a quella che è la promozione, che sarà oggetto quindi di un prossimo articolo da parte nostra. Per il momento è tutto, lasciamo un saluto da parte del piacere di scrivere.it, vi ricordiamo che potete ascoltare sui canali podcast su Spreaker e su Internet Archive, i nostri video sono su YouTube e su Vimeo, i nostri canali social sono su Facebook, Instagram, Twitter e Pinterest, quindi ci potete seguire tranquillamente da tutti questi canali, sempre a nome Il Piacere di Scrivere. La musica di oggi è Once Upon a Time di Audio Binger, che abbiamo trovato sempre su Free Music Archive. Alla prossima!